Essere e benessere di Nicoletta Carbone. E buongiorno a voi, è il 15 marzo. Siete ancora in inverno o già sentite la primavera? Il cambio di stagione, lo sappiamo, è un momento delicato e il passaggio dall'inverno alla primavera lo è in modo particolare. L'energia è in rosso, quantomeno le pile sembrano scariche, ma in questa situazione che assomiglia un po' alla fine del letargo, qualcosa si muove. Muoviti, muoviti, e allora muoviti, muoviti, comincia a muoverti, muoviti, e allora muoviti, muoviti. E allora muovetevi anche voi, chiamate il nostro numero verde 800 24 00 24 per raccontarci se siete ancora in letargo, assonnati, appesantiti dall'inverno, o se anche se con un po' di fatica vi state risvegliando, state mettendo il naso nella primavera e sentite quindi un leggero, mia piacevole, frizzicorino che si muove dentro di voi, che fa per l'appunto primavera. Respiriamo l'aria, è la primavera. Ci avete naturalmente già scritto su Facebook e intanto vi ringrazio e vi ricordo che potete seguirci su Facebook e su Twitter, oltre che chiamare già il nostro numero verde 800 24 00 24. Se le puntate ve le perdete potete scaricarle, insomma possiamo rimanere sempre in contatto. Katia mi ha scritto: quando arriva la primavera sono sempre felice, sole, luce, ma arriva anche la mia allergia combattuta con antistaminici, mi fanno un abbiocco, la fiacca mi assale anche senza antistaminici, non reggo più i ritmi. Primavera sì, ma evitiamo tutto il resto. Nel corso della trasmissione vi leggerò altri messaggi che arrivano su Facebook o al nostro numero verde, ma intanto voglio salutare il dottor Marco Maiola, medico agopuntore e docente di agopuntura alla scuola Sowen di Milano. Buongiorno. Buongiorno a lei e tutti i radioascoltatori. Possiamo dire una new entry come la primavera. Esattamente. Senta dottore, occupiamoci subito di Katia. Katia, come me, quando la primavera rifiorisce, ma deve fare i conti con l'allergia. Ma il periodo della primavera è un periodo di passaggio. È un periodo di passaggio da un momento come l'inverno, nel quale c'è una chiusura, c'è la neve, c'è il freddo, e la natura incomincia a muoversi dall'interno verso l'esterno. Sì. Un movimento che in medicina cinese viene chiamato dallo yin verso lo yang. Allora Katia, come la natura che le sta intorno, incomincia a fiorire, a muoversi verso l'esterno e quindi comincia un'attività anche fisica e anche di umore, psichica, che la muove verso l'esterno. Quindi dal dentro al fuori. Dal dentro al fuori. Come facciamo con le nostre piante, no? Anche in casa, le piantine. La natura ci insegna sempre. Il discorso dell'antistaminico è un discorso che spesso nel periodo primaverile viene alla ribalta, perché i pazienti si trattano spesso le allergie con antistaminici. Per esempio la medicina cinese dà un rimedio naturale ottimo da questo punto di vista, principalmente per le oculoriniti, meno le complicanze asmatiche. Per chi ha problemi di occhi lacrimanti e di naso che cola. Certo. Ho tradotto bene. Ha tradotto benissimo. Il rimedio è la centipeda. Viene trovato facilmente nelle farmacie in compresse di estratto secco, se ne prende una al giorno e ha un effetto naturale simile, anzi sovrapponibile a quello degli antistaminici senza averne gli effetti collaterali. Allora oggi uniremo le forze, la medicina dell'Occidente e la medicina dell'Oriente, per affrontare questo momento delicato che è il passaggio dall'inverno alla primavera, dal dentro al fuori. Stiamo uscendo, come ricordava il dottor Maiola, da una stagione difficile, impegnativa da più punti di vista. Il nostro sistema immunitario ha dovuto difenderci dagli attacchi del virus, il lavoro ha logorato le nostre energie mettendoci sotto stress e poi il freddo e le giornate corte non hanno certo aiutato il nostro umore. Insomma, abbiamo lottato e adesso, dottor Maiola, fisiologicamente siamo stanchi, senza energia. Sì, la stanchezza è uno di quei segni che colpisce le persone in questo passaggio di stagione. A me piace fare un paragone non molto taoista, cioè paragonare l'uomo all'automobile. Noi medici cinesi ci rifacciamo molto al discorso taoista, però l'automobile insegna da qualche punto di vista. Allora abbiamo l'automobile, il nostro carburante che è la benzina e l'aria, il nostro carburante è l'alimentazione e poi abbiamo la batteria nell'automobile. Bene, come abbiamo trattato la nostra batteria durante l'inverno? d'inverno, senza lasciare le luci accese dell'auto, senza lasciare l'aria condizionata accesa nell'auto, eccetera, eccetera, ci permette di arrivare con le energie integre nel miglior modo possibile per il rilancio primaverile. Quindi anche da un punto di vista alimentare, per esempio, gli alimenti che ci caricano, ci danno per esempio quelle energie tipiche dell'inverno, le castagne, piuttosto che alimenti più integrali, più ricchi di energia, al momento primaverile, nel momento in cui si ha un ritorno verso la luce e l'attività, ci permettono di avere questo slancio. Quindi se siete stanchi restate con noi, se invece sentite già muovervi qualcosa dentro di voi si sta risvegliando, 800 24 00 24, perché spesso diciamo sono ancora assonnato, appesantito, insomma l'inverno lascia il segno. Dottore, si fa fatica a fare a non fare, a dormire, a stare sveglio, ma la frase che spesso ripetiamo in questo periodo, sono stanco, racconta cose diverse da persona a persona. Quindi forse sarebbe proprio utile proporre ai nostri ascoltatori qualche stimolo in modo che possano riconoscere la loro stanchezza. Che tipo di stanchezza soffrono? Perché individuata quella riusciremo a dare a loro dei consigli per ripigliarsi, insomma. Ma in effetti ci sono due grosse tipologie di persone stanche. C'è la persona che si alza la mattina e che mano a mano che va avanti la giornata carbura con le energie e quindi verso il pomeriggio o la sera poi cinguetta allegramente. C'è la persona che invece si alza la mattina e è stanca e va a letto che è ancora più stanca. Nel nostro caso la prima categoria è una persona che per noi ha un ristagno di energie, quindi è necessario mettere in movimento. La seconda persona è invece una persona che ha il serbatoio vuoto, quello che dicevamo prima, è un po' alla frutta e quindi necessita invece di un'attività, di un'alimentazione che ricostruisca ciò che invece andava ricostruito durante l'inverno. Allora cercate di individuare subito a quale profilo appartenete. Vi alzate la mattina stanco, con questa insomma stanchezza anche un po' sfumata, ma nel corso della giornata vi ripigliate, acquisite energia, forza, tanto che finite la giornata con una sorta di energia in più, quindi certo. Bene, vi portate avanti bene, o invece iniziate stanche, vi trascinate nel corso della giornata e arrivate a casa che siete distrutti. 800 24 00 24, due tipologie importanti, provate a riconoscervi intanto che voi chiamate e ci raccontate a quale profilo appartenete. Io saluto, perché ce l'abbiamo qua, come poteva mancare, il professor Stefano Tirelli. Buongiorno. Buongiorno Nicoletta. Ormai non la presento più. E dico, a tutti gli ascoltatori. Ma dico sì, che ormai insegna sono tecniche noioso, complementari, certo, sportive alla Facoltà di Scienze Motori dell'Università Cattolica di Milano e che ha scritto un libro che ha lo stesso titolo. Grazie, grazie. Diciamolo. Spero che possa essere quantomeno utile per gli ascoltatori, perché credo che ci siano delle informazioni che il dottor Maiola ha già accennato molto bene adesso, che veramente nell'ambito anche della nostra cultura occidentale possiamo utilizzare, derivanti dalla cultura orientale. Facciamo proprio un mix, un intreccio, sì. Complementari a proprio questo senso Ma specifico. Sì, perché ormai la visione, diciamo, della vita, della salute è questa, non è più fatta di settorialità, ma è fatta di reciproco aiuto. Questo io sono convinto che sia il presente, ma anche il futuro della medicina. Cioè, laddove noi riconosciamo delle potenzialità soggettive, dei limiti della nostra cultura, possiamo anche accettare le ricchezze delle altre. Professor Tirelli, abbiamo parlato di stanchezza, di calo di energia, di pile scariche. E poi i nostri ascoltatori devono provare a riconoscersi nei profili suggeriti dal dottor Maiola. Possiamo regalare alle 11:19 a Essere Benessere, che vuole essere uno spazio per aiutare le persone a prendere consapevolezza del proprio benessere, soprattutto a coltivarlo, a suggerire un esercizio energizzante, se è utile, ricaricante, che vada bene un po' per tutti, per il profilo A e per il profilo B? Beh, allora, in questo caso direi che se volessimo trovare una via di mezzo, io sono affezionatissimo a quello che ormai credo molti ascoltatori e ascoltatrici conoscono, è il famoso Douyin. È questa tecnica è veramente di autopicchiettamento della propria cute. Cioè il Do-in, questa tecnica bellissima giapponese che ha sicuramente una conoscenza molto profonda, però noi la sviluppiamo, la regaliamo agli ascoltatori in questo modo. Allora, io devo risvegliare in modo graduale le mie energie lungo i meridiani, i canali energetici, ma anche lungo le catene cinetiche muscolari. Allora, la cosa che posso fare è all'inizio, a quest'ora anche, magari eviterei di farlo di fronte ai colleghi in ufficio, onde evitare di essere visti come probabilmente delle persone non del tutto equilibrate, però prendere il nostro palmo della mano e iniziare a dare dei colpetti, proprio dei colpetti molto molto molto energici e frequenti, dalla mano per esempio destra fino alla spalla, e poi sia sul dorso che sulla parte laterale. La stessa cosa va fatta con le due mani, partendo dalle nostre anche e lavorando con questi picchiettamenti sempre del palmo della mano, come se fosse una sorta di una carezza, ma molto molto molto decisa. Quindi io risveglio quelle che sono le energie dei canali energetici laterali delle cosce, laterali della tibia, e posso farlo per 2 minuti. Io sentirò senz'altro che dopo poco questo picchiettamento mi provocherà innanzitutto calore. Cos'è il calore? È proprio il risveglio muscolare microcircolo, ma è anche il risveglio proprio dei canali energetici. Però vorrei anche suggerire una cosa, che laddove dovessimo trovare una situazione, come diceva molto bene il dottor Maiola prima, di deficit un po' di quelle energie proprio di base, quei serbatoi vuoti, allora io devo lavorare più con lo stretching, e quello è un ottimo risveglio. Laddove invece c'è un ristagno, quindi quello che il pomeriggio si sente meglio, allora già lì per esempio iniziare con una bella camminata sostenuta al mattino direi che è l'attività migliore. Quindi chiamateci, raccontateci come si muove l'energia, la stanchezza, se vogliamo guardare l'altro lato della medaglia, nel corso della vostra giornata, in questo momento di passaggio, e il dottor Maiola e il professor Tirelli cercheranno di dare dei consigli precisi, mirati, che vadano un po' sia sul fronte dell'alimentazione che di quello del movimento, perché dottor Maiola, lei mi diceva che le nostre pile si possono ricaricare anche in modo piacevole, modificando un po' il nostro stile di vita, adattandolo proprio come si fa con il nostro guardaroba alla nuova stagione. La natura ci viene incontro. Sì, come diceva il professor Tirelli, il corpo e l'attività muscolare denunciano molto bene quello che avviene su tutti i piani: su un piano metabolico, su un piano muscolare e su un piano mentale. Nella tradizione cinese esistono le pratiche interne e le pratiche esterne. In inverno avremmo dovuto privilegiare le pratiche interne. Certo, il pensiero taoista, le pratiche interne sono le pratiche meditative, ma per noi nella vita di tutti i giorni sono magari la lettura, lo stare un po' più raccolti, un po' più all'interno, anche di noi stessi. Col movimento della primavera ci si può proprio aprire da un punto di vista muscolare, da un punto di vista di tempo passato all'esterno, da un punto di vista mentale e di umore. Il problema è che quando siamo stanchi la sola idea di muoverci ci fa fatica, eppure per una strana legge degli opposti, ve la dico così ma non è proprio così, ma tanto per rendere l'idea, quanto più siamo giù, quanto più muoverci ci tira su. In linea con noi abbiamo la professoressa Daniela Lucini, associata all'Università di Milano e responsabile della sezione di medicina dell'esercizio di Humanitas. Buongiorno professoressa. Buongiorno, bentornata. Buongiorno. Allora, noi dobbiamo, anche quando non abbiamo voglia, anche quando ci sentiamo stanchi, quando aspettiamo l'autobus e diciamo meno male che è arrivato, lo prendo anche solo una fermata perché proprio non ce la faccio più, dovremmo invece fare un pensiero opposto. Sono molto stanco, mi trascino, ecco, allora faccio 2 passi. Sì, sì, può essere detto anche in questo modo. Diciamo che sicuramente è vero quello che stava dicendo prima, cioè più una persona è stanca, soprattutto se ha una stanchezza, diciamo, cronica, che dura tempo, mi sveglio al mattino e sono stanco, non ho voglia di fare nulla. Ecco, in questi casi il muoversi, ovviamente stando molto attenti, senza esagerare, certo, diventa invece un qualche cosa di completamente utile. Ecco, fa stare meglio. Ed è provato, è fisiologico. Sì, sì, sì, è, Ecco, mi aiuta a capire, a mandare questo messaggio? Certo. Perché sembrano, se no, solo consigli dei medici. Perché i medici vogliono che noi mangiamo bene, che ci muoviamo, che noia. Invece poi... Però ogni queste... tanto trovano anche qualcosa di interessante. Ecco, queste novità, queste noie, ecco, invece... Vogliono dire che molto spesso, quando c'è queste stanchezze, soprattutto croniche, sì, la persona è disallenata, c'è proprio un'alterazione, si dice, di quello che si chiama tecnicamente sistema nervoso autonomo, che per dirlo in parole povere è quella specie di pilota automatico che controlla le nostre funzioni, che è un pochettino alterato. Quindi la pressione lavora in un modo diverso, il cuore batte in un modo diverso. Abbiamo tutti presenti che gli atleti hanno la frequenza cardiaca più bassa, le persone disallenate fanno un piano di scale e hanno il cuore in gola. Certo. È perché è questo sistema che non funziona bene. Bene, quando noi ci mettiamo a riallenarci, a fare attività fisica, ripeto, nel modo giusto, questo sistema migliora. Quindi anche la parte di funzione, di ormoni, di controllo generale riprende a funzionare in una maniera completamente diversa. Più mi rialleno e meno sono stanco. Quindi l'invito è muoversi gradualmente. Gradualmente. Approfittiamo della bella stagione, approfittiamo delle ore di luce. Il camminare è una cosa perfetta. Grazie professoressa Lucini. Grazie per essere stata con noi. A presto, salve. Professor Tirelli, quindi non resta che muoverci. Torniamo ai nostri due tipi: a chi si sente stanco e poi si risveglia nel corso della giornata, invece chi invece si trascina dal mattino alla sera. Ma un ascoltatore, ad esempio, mi scrive: e che inizia la giornata bene e la termina stanco. Questo è un terzo profilo che noi non avevamo contemplato. Beh, in questo caso, se volessimo identificare questo tipo di soggetto, nella medicina cinese potremmo identificarlo come soggetto con un ristagno di elemento terra, cioè sono le persone che spesso hanno attitudini, tendenze a eccessi di preoccupazione, di elaborio mentale e che consumano quelle che sono le riserve energetiche che noi in Occidente appunto chiamiamo di resistenza, di endurance, mentre da un punto di vista medicina cinese è proprio lo stomaco, la milza, il pancreas che come organi diciamo vengono sovraccaricati. Allora in quel caso la cosa migliore è evitare, in questo caso ovviamente, esercizi o attività aerobici, perché sarebbero proprio contrari a chi in quel momento non potrebbe sopportare questo tipo di sollecitazione. Quindi noi dobbiamo aggiungere un'altra domanda per i nostri ascoltatori: quale attività fate nel corso della giornata e quando? È giusto? Cosa dice il dottor Maiola? Ci piace questo? Mi sentivo con attenzione quello che diceva il professor Tirelli. Perché pensando proprio di sbagliare l'attività fisica? No, pensavo ancora al discorso della terra e dell'elaborazione. La capacità di trasformare della terra e dell'apparato gastroenterico è la capacità di avere energie corrette per il proseguo della giornata. Quindi il discorso che faceva giustamente il professor Tirelli da un punto di vista comportamentale di movimento è fantastico. Sicuramente va abbinata anche un'alimentazione che sposta un'assunzione di alimenti nella prima parte della giornata che poi restituiscono energia nella seconda parte della giornata. 800 24 00 24, se volete intervenire, suggerirci anche le vostre strategie per passare per questo passaggio di stagione un po' complicato. Abbiamo Giancarlo che ci chiama da Milano e Marcello da Novara. Giancarlo, buongiorno. Giancarlo? È sparito. Sì, sono qua, mi sente? Sì, la sento. Adesso con un... Allora. Mi dica. No, ora la mia strategia, perché io non sono, diciamo, un dottore, cioè, la strategia è questa, cioè, innanzitutto fare un lavoro che ci piace e poi fare una vita, diciamo, che ci piace. Poi dopo, chiaramente, bisogna, come diceva il dottore, sentivo, no, giustamente, io faccio molte camminate, faccio jogging un paio di volte alla settimana. Bravo. E mangio appunto poco. Sì, no, io la sento bene. Questo è un po' il suggerimento di Giancarlo, che dice: il lavoro già è bello averlo, poi se è un lavoro che ci piace, questo ancora meglio, e poi curare anche la giornata inserendo dei momenti, degli spazi in cui, facendo attività fisica, cosa facciamo in fondo? Ci occupiamo di noi. Professor Tirelli. Sì, signor Giancarlo, secondo me ha detto una cosa molto importante: dobbiamo cercare qualcosa che ci piace fare. Questo è importantissimo, perché perché l'abbiamo ripetuto tante volte, però io non mi stanco mai a dirlo anche ai miei pazienti piuttosto che alle persone, ai miei atleti. Il discorso è: scegliamo innanzitutto quello che ci dà motivazione, e poi se arriviamo da una fase invernale di pigrizia, di sana pigrizia, cerchiamo di riattivarci in quale modo? Non pensandoci troppo. Cioè, iniziamo l'attività senza pensare che dobbiamo farla, la facciamo e basta. Io vorrei salutare Marcello che ci chiama da Novara. Marcello? Sì, sì. Buongiorno. Noi siamo quasi ai mercati. Se lei vuole iniziare a stuzzicarci con la sua proposta o la sua domanda, poi mi accompagna lei. Non ho molte proposte, perché mi trovo in una situazione difficile. Soffro di insonnia, per cui tendo a svegliarmi la mattina abbastanza presto, prima della sveglia. Sì. Mi alzo già stanco. Riesco a bere un caffè, ma dopo di quello non riesco a ingerire niente, perché ho proprio connati di vomito. E mi trascino durante la giornata questa stanchezza fino ad arrivare alla sera. È già bravo a stare in piedi, Marcello, è già bravo. Non dorme, non mangia, lavora. Essere e benessere. E noi cerchiamo di tirare su Marcello, che è in linea con noi. Marcello, eccoci qua. Ho attivato i nostri gli esperti di essere benessere. Si sveglia, risveglio anticipato, chiamiamolo così, e che è tipico delle persone che si svegliano intorno alle 4:30-5 del mattino, hanno l'occhio sbarrato, però sanno che vorrebbero dormire di più, non ce la fanno. La colazione diventa un caffè, perché non si ha fame, anzi Marcello ci racconta anche questa sensazione un po' di nausea, e con queste premesse il nostro Marcello affronta la giornata, e quindi è facile capire come arrivi alla sera. Dottor Maiola. Ma noi non avevamo posto l'accento su un aspetto fondamentale che determina stanchezza poi durante la giornata, che è la qualità del sonno. Quindi il nostro radioascoltatore ci ha richiamato all'ordine. La qualità del sonno è più importante della quantità del sonno. Ci sono persone che dormono poche ore, ma che durante la giornata hanno delle ottime energie, quindi non accusano sonnolenza o stanchezza. Ci sono persone che magari dormono una quantità di ore anche sufficiente, però, almeno, però da un punto di vista qualitativo le energie che abbiamo poi durante la giornata sono poche. Il nostro radioascoltatore... Allora, io sono consapevole che non si può far tutto. E oggigiorno noi siamo sottoposti a ritmi, a abitudini, a orari che non rispettano sempre la fisiologia del nostro corpo. Il mangiare poco la mattina è un grosso errore. È un grosso errore, perché noi mangiamo prevalentemente la sera. È come fare il pieno alla nostra automobile di cui parlavamo prima e metterla nel box. Ora, questo è un grosso problema. È un problema oltretutto perché fa accumulare grassi. Oltretutto in questi giorni è venuta fuori una ricerca che rapportava l'obesità alla quantità e alla qualità del sonno. Ma al di là di questo, il pieno della benzina va fatto e poi la macchina va utilizzata. Quindi se il nostro radioascoltatore beve solo un caffè e poi pensa di avere le energie per poter affrontare la giornata... Quindi il consiglio può essere, ad esempio, tenere leggero il pasto serale, in modo che al mattino non è ancora impegnato nella digestione. La regola dovrebbe essere questa: la mattina cercare piano piano, che potrebbe aiutare poi anche il discorso della nausea che ci riferiva il nostro radioascoltatore, piano piano inserire per esempio dei cereali, piano piano inserire anche delle proteine, come spesso fanno all'estero, perché l'associazione di carboidrati comunque di proteine è un ottimo mix per affrontare la giornata. E poi controllare la qualità, lavorare sul suo sonno, sulla qualità del sonno. Tra l'altro oggi è la sesta edizione della Giornata Mondiale del Sonno. In linea con noi abbiamo il professor Ferini Strambi. Buongiorno professore. Buongiorno. Ma come potevo non sentirla in questa giornata? Che responsabile del Centro di Medicina del Sonno del San Raffaele Turo di Milano. Professore, tra l'altro il dottor Maiola citava la ricerca sonno e accumulo di peso. Lo slogan di quest'anno è buon sonno, invecchiamento sano, quindi dormendo bene invecchiamo anche meglio. Ma certo, certamente, anche perché, a parte quello che citavate prima, sappiamo benissimo che purtroppo l'obesità, il sovrappeso è in stretta relazione alla scarsa quantità e alla scarsa qualità del sonno, perché viene liberato quell'ormone che si chiama grelina che ci fa mangiare. Ecco perché molto spesso i nostri insonni o i nostri privati di sonno vanno in cucina, aprono il frigo e mangiano. Però al di là di questo aspetto, il fatto della, diciamo così, di potersi assicurare una vita più lunga è dimostrato chiaramente da uno studio, da una ricerca che non è stata ancora pubblicata, ma che in anteprima così posso tranquillamente parlarne, una ricerca che è stata condotta in Spagna. Facciamo un po' uno scuppone, mi piace. Cos'è, ma è una bella ricerca, perché quando parliamo di queste cose dobbiamo tener conto di fare una considerazione importantissima. Tutte le osservazioni che noi facciamo acquistano sempre un valore maggiore se questi studi vengono fatti in maniera prospettica, cioè se quindi io non faccio un'osservazione oggi, ma osservo ad esempio un gruppo di persone per 5-10 anni e vedo qual è l'evoluzione. Ecco, c'è questo studio spagnolo che è stato condotto su 3.500 soggetti che sono stati valutati una prima volta nel 2000 e sono tutti soggetti che erano al di sopra dei 60 anni e che poi sono stati seguiti per 10 anni. Allora, la cosa importante di questa ricerca qual è? È che oltre alle classiche cose che noi sappiamo benissimo sono correlate a una diminuzione della mortalità, cioè quindi una vita più lunga, e che sono il fatto di non fumare, il fatto di avere una buona attività fisica, il fatto di rispettare una dieta, ecco, ci sono poi altre cose, e tra queste altre cose quello che spicca è il dormire tra 7-8 ore ogni giorno. Quindi il dormire 7-8 ore ogni giorno è uno dei fattori che ci consente appunto un prolungamento della vita. E quindi questa ricerca lo dimostra chiaramente. Che poi noi sappiamo benissimo, c'è l'aspetto del sonno che ci consente di inibire il cortisolo, che è l'ormone dello stress, ci consente di avere una migliore risposta immunitaria. Questo è un altro aspetto importante, perché quando noi cerchiamo di avere di fronte a delle infezioni una buona risposta immunitaria, di sviluppare una memoria immunitaria, cioè creare degli anticorpi contro questi agenti patogeni, ecco, se noi dormiamo bene questo lo facciamo molto meglio. Ma poi, Nicoletta, l'ultima cosa che volevo dire, perché non voglio annoiare i nostri teleascoltatori, c'è un altro dato importante che oggi sappiamo, è che c'è una stretta associazione tra quella che è la privazione di sonno e purtroppo le malattie neoplastiche. E quindi il fatto stesso di avere un buon sonno e quindi di prolungare la vita è anche un po' legato a questo aspetto. Ma perché la privazione di sonno può crearci problemi anche appunto purtroppo per sviluppare queste brutte malattie che mai nessuno noi vorremmo avere? Perché c'è il problema dello stress ossidativo. Cioè, quindi con la privazione di sonno c'è quella rottura di quell'equilibrio fisiologico tra la produzione e l'eliminazione di sostanze, di specie ossidanti, iperossidi e radicali liberi. Ecco, se dormiamo poco, purtroppo c'è un eccesso di questi agenti che danneggiano tutti i componenti delle cellule, le proteine, i lipidi, il DNA delle cellule, e quindi poi la conseguenza è che appunto siamo purtroppo, ahimè, maggiormente predisposti a sviluppare anche malattie negative come quelle neoplastiche. Quindi, professore, buon sonno è una buona, vuol dire buona salute. Assolutamente sì, assolutamente. Professore, grazie per essere stato con noi, anche per aver anticipato i risultati di queste ricerche molto interessanti. Le auguro una buonissima giornata e la ringrazio per essere stato con noi. Grazie a lei e a tutti i teleascoltatori. Buona giornata. Buona giornata, Lara da Bolzano, e poi Patrizia da Roma. Buongiorno, Lara. Buongiorno. Buongiorno a lei. Buongiorno. Volevo chiedere un parere ai medici. Sì. Io ho notato che da un paio di anni ha un orario ben preciso della giornata, verso 17 nel pomeriggio, ho un calo totale, andrei proprio a dormire, però ovviamente non si lavorando può. Non si può, certo. Mi dura per circa 40 minuti, cerco di svegliarmi facendo di più, lavorando di più, però proprio ho notato questo orario preciso, 17, a me intorno alle 17 se avessi un letto andrei a dormire. E volevo chiedere se grazie Lara, lei ha fatto una domanda bellissima, perché ci permette di ricollegarci ad un tema che abbiamo già trattato col professor Tirelli, e ci sono quello dell'orario, cioè la medicina cinese ci porta la nostra attenzione sulle ore della nostra notte, della nostra giornata, su particolari segnali che si manifestano con preferenza in una parte della giornata, anzi possiamo proprio essere più specifici, in un'ora invece che un'altra, perché c'è tutto un fluire di energia nel corso della giornata, e quindi dimmi come ti senti all'ora X e io ti dirò come stai o che cosa devi fare per stare meglio. Professor Tirelli, sì, le 5 del pomeriggio. Sì, tant'è che molte aziende farmaceutiche hanno capito questa cosa, appreso queste conoscenze anche da altre culture, e indicano per esempio in alcuni orari la migliore assunzione di alcuni farmaci piuttosto che altri per alcuni organi. Certo. Alle 17, per esempio, 5 del pomeriggio, abbiamo a che fare con quella che è la funzione energetica metabolica dei reni. Allora, in questo caso ci indica il fatto che probabilmente questi cosiddetti serbatoi di energia, che sono proprio questi organi fondamentali, nel caso dell'ascoltatrice sono un po' deficitari, ma non tanto a livello patologico, non stiamo parlando di malattie renali, stiamo parlando solo di esaurimento scorte. Quindi in questo caso suggerirei, per quanto mi riguarda, di non fare attività sportiva a forte impatto, perché abbiamo in questo caso necessità solo di muovere le energie, non di usarne troppe. Quindi alla nostra amica Lara di Bolzano, lei suggerisce un'attività sicuro, ma sì, che può essere semplicemente una passeggiata. Passeggiata, stretching o magari il nuoto, ma non forzando troppo. Però queste tre situazioni sono molto positive. Per in una parte della giornata precisa o quando si vuole? Sarebbe meglio farlo al mattino, però dovendo lavorare a quant'altro, diciamo che allora prima di cena sarebbe molto meglio farlo, possibilmente quindi o nelle fasi del mattino prima di andare al lavoro o quant'altro, o verso quell'orario stesso dei reni. E comunque lente, soft. Sì. Essere e benessere. Allora, parliamo di energia in questo momento di passaggio dall'inverno alla primavera. Abbiamo quasi tutte le pile scariche, è normale. Cerchiamo allora però di capire a che punto del serbatoio siamo, e soprattutto quindi cerchiamo di raccontare ai nostri esperti, possiamo farlo all'800 24 00 24, come va la nostra giornata. Siete delle persone che si alzano stanche ma poi nel corso della giornata si riprendono? Siete invece delle persone che si alzano stanche e non vi riprendete, anzi nel corso della giornata questa stanchezza si accumula e diventa veramente molto faticosa? Siete invece un terzo tipo di persone, una terza tipologia, persone che si alzano con energia ma sentono, come ci raccontava ad esempio la nostra amica Lara di Bolzano, che nel corso della giornata questa energia si spegne? 800 24 00 24, è importante agire su queste tre tipologie diverse con consigli di attività motoria e anche con consigli alimentari, e il professor Tirelli ci dirà magari anche qualche punto magico. Professore, iniziamo da quelli proprio stanchi e che poi continuano ad andare giù nel corso della giornata. Sì. Sembra il partito più consistente, almeno dei messaggi che mi arrivano. Sì, anche perché proprio per fare una sintesi di quanto abbiamo detto adesso, io credo che sia importante ricapitolare. Ci sono persone che si svegliano stanchi e poi durante la giornata la situazione peggiora. Allora, in questo caso, da un punto di vista della medicina cinese, ma anche nostro occidentale, segnala un fatto di deficit di quella che si chiama funzione renale, ripeto, non di patologia. E in questo caso gli esercizi migliori sono, secondo il mio punto di vista e quello della medicina cinese, esercizi di allungamento muscolare, quindi quello che noi in Occidente chiamiamo stretching. Perché muovono energie, quindi sviluppano energia senza andare però a depauperare ciò che nel serbatoio è già di per sé scarso. Quindi concretamente può essere lo stretching, può essere però anche altre attività come yoga, pilates. Certo, yoga, pilates, stretching, tai chi. Perfetto, bravissima. Ecco, sottolineiamo ormai il tai chi. Tu, Nicoletta, sei più brava e preparata sicuramente di me. Beh, quindi questo è un dato di fatto. Questo mi dà un po' più di energia, ma non è vero. Poi c'è l'altro settore, quello della persona che si sveglia stanco ma poi si riprende nella giornata, che da un punto di vista della medicina cinese viene chiamato funzione energetica del fegato. È quello che appunto è un ristagno di energia, ma poi in realtà il movimento lo fa star meglio. Allora, in quel caso le attività migliori sono anche la corsa, l'attività aerobica, ciò che risveglia, sono anche le attività muscolari, quindi poter andare in palestra, elastici in casa, quant'altro che tenda a ridare tono al muscolo. E poi c'è la terza personalità, che è quella in cui ci si sveglia bene. Leoni al mattino, okay. E poi alla sera non so quant'altro. Ecco, in quel caso nella medicina cinese ci si associa a quello che è l'elemento cosiddetto terra, cioè la capacità, per quanto riguarda la nostra visione occidentale, di avere resistenza, cioè ciò che è endurance, l'allenamento aerobico protratto. Quindi il dottor Maiola, che oltre ad essere un ottimo medico è anche un maratoneta, conosce meglio di me il fatto che spesso in questi casi io devo lavorare su attività che mi conducano ad un'attività media, quindi elastici, e poi per esempio il camminare, ma con un passo molto frequente. Abbiamo Patrizia che ci chiama da Roma. Buongiorno Patrizia, benvenuta. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti i suoi ospiti. Allora, sì. Io sono invece quella del doppio risveglio, sì. Ovvero dormo 6 ore per notte, da mezzanotte alle 6, sì. Mi alzo pienissima di energie, e faccio una camminata in pineta di un'ora con i miei cani e poi pratico lo yoga Iyengar, che lei conosce molto, sì. Bene, un'ora e mezza ogni giorno. Brava, ora, Patrizia! Poi vado a fare la spesa, vado a fare tutto quanto, preparo da mangiare alla mia famiglia e alle 2 è il crollo totale. Un sonno da morire, che se posso andare a dormire dormo un'oretta e poi ho il secondo risveglio piena di energia. Sì. Se non posso andare a riposare è un disastro, perché rimango in questo stato di catatonico, sì. Per almeno 2 o 3 ore prima di potermi riprendere, cosa che poi per me è un grande limite, perché chiaramente se uno si può riposare, per carità, certo. Ma se uno non si può riposare è un disastro. Assolutamente. Io allora, sono vegetariana, sì. A pranzo mangio di solito carboidrati e la sera proteine di origine vegetale. Patrizia, la affido al dottor Maiola. Il momento della pennichella alle 2, a Patrizia e a molti di noi cade l'occhio, no? La palpebra. Che si fa, dottor Maiola? Abbiamo pochi secondi, ma innanzitutto non criminalizziamo la pennichella, perché sembra, noi abbiamo questo mito dell'iperattività, quindi innanzitutto ci sta anche eventualmente la possibilità di un breve recupero, sicuramente forse l'alimentazione del pranzo andrebbe un attimo calibrata, nel senso che i carboidrati danno sicuramente energia, vanno benissimo a pranzo, però bisogna cercare di associarli sempre a delle proteine. E poi la quantità è fondamentale, sicuramente l'ascoltatrice segue una dieta attenta, perché essendo vegetariana, però probabilmente bisognerebbe approfondire un attimo l'argomento, bisognerebbe vedere dalla colazione, insomma è un discorso da approfondire un po' più con attenzione. Allora, intanto io vi saluto, vi devo salutare al professor Tirelli, al dottor Maiola, a voi, grazie per essere stati con noi, a lunedì. Radio 24, la passione si sente. Essere e benessere.